non so. E comunque sia, l'avrei pure tutta la mattina a gazzoglio io. Ma chi dice a gatto, mamma mia, è un casino, ciuccia, ciuccia, mamma mia, non è così, no. Questa qui, guarda, per scendere ho messo, cioè non me l'ho messa io, meno male che questa volta io ci sono, non attribuisco nulla. Allora la ditta mi ha messo 60 euro di benzina, cioè, per alzare e scendere da Alghero. Il pieno di quella macchina è quasi 80 euro. Io lo stesso, quando faccio il pieno sono... prima ero a 70, 72 euro, adesso è quasi 75 euro, capito, con gli aumenti che ci sono stati. Pensa tu. Invece mi ricordo l'anno scorso facevo il pieno con 62, 63 euro, capito? Ovviamente con la riserva che era ancora non era neanche entrata, io ho le pacchette, no? Solitamente io quando sono in segna due pacchette, quando sono alla terza vado tranquillo, come entra la seconda pacchetta allora io vado e mi faccio il pieno e mettevo sempre così 72, 73, 65 euro, tomate. E poi pian piano aumentata, adesso in un anno ci vogliono 10 euro in più di per fare un pieno ci vogliono 10 euro in più rispetto a un anno fa, te ne rendi conto, un sacco di soldi. Non so, cioè, i gani si rimania a voi cosa, non dice cosa, cioè alla fine sono paesi che te lo danno, cioè, costa meno dell'acqua, costa, e qua se la faranno pagare a prezzo duro, vabbè che se non viene i tassi, se no l'avremmo manco pagato così. Sì, sì, lo so, dove costa poco sono... Insomma, quei paesi dove la producono, per esempio in Venezuela addirittura costava molto perché con Maduro si prendeva tutti i quattrini lui e poi c'aveva l'embargo e quindi non è che ne stava esportando tanta, capito? Però nel Venezuela di 20 anni fa, 30 anni fa, fare il pieno lo avresti fatto con... con l'equivalente di 10 euro, capito, di qua, perché là tasse ce ne sono poche di produzione, di trasporto, lo producono loro, e poi il grigio che produce il Venezuela, capito, è quello di migliore qualità. E comunque il problema è questo, che il governo per incentivare, spingere la gente a spendere soldi, a comprare macchine nuove, sta facendo queste cose qua che sono delle porcherie. Andiamo, cioè, hanno tolto la tassa da una parte e l'hanno messa sul gasolio. Quella pipina si è aumentata anche la benzina, siamo alla pari quasi, solo che il motore a gasolio, giustamente, motore a gasolio, se faccio la promozione, va sempre, consuma sempre di meno, consuma, perché è così, quando andava molto bene, cioè con 20 euro tutta la settimana, vabbè, se la data a me 20 euro no, non mi basteranno sicuro. Sì, già lo credo, comunque come hai detto tu prima il mercato dell'auto è in crisi e devono cercare di salvarlo in un modo o nell'altro, e così è, va bene. Oggi era una bella giornata per farmi il cambio d'antenna, provare la J-Pol, a metterla, però avevo tante cose da fare, poi sono dovuto andare a ritirarmi anche un pacchetto perché me l'ho fatto arrivare al lab da Tanit, capito, perché a casa molte volte non mi trovano. E poi avevo un appuntamento alle 10 e quindi sono rientrato a casa e sono venuti quelli della Medea perché dice che la valvola di sicurezza giù al contattore l'hanno messa dietro, invece va messa davanti, quindi devono fare una modifica, allora mi hanno chiesto un altro appuntamento. rottura di palle con questo, come si chiama, col metano, perché adesso sta venendo la fretta, capito, vogliono fare il passaggio quanto prima, dal gas con aria profanata a metano, e quindi stanno facendo le verifiche, i collaudi di tutti quelli che hanno fatto cambiamenti adesso, già, no? Tipo io che addirittura il foro che mi hanno fatto l'hanno fatto da 8 e invece dice che va fatto da 10, quindi me lo devono allargare, e ho detto chi l'ha fatto non lo sapeva questo, perché loro hanno fatto il foro come l'altro, invece va da 10 e quindi mi devono allargare il foro. Adesso me l'avevo tutto rifinito, stuccato e tutto, adesso mi portano di nuovo la foratrice, capito, per allargarlo, mi mettono dentro un tubo da 10 di diametro e poi ci mettono le grigliette di nuovo, però loro non è che se lo rifiniscono, di cui mi tocca di nuovo stuccarmelo, eccetera, capito, perché ce l'ho nel soggiorno e poi a vista, e non è che mi devi babbare tutto il muro, capito? Insomma, sempre rotture di palle. Vabbè Antonio, dai, ci sentiamo più tardi, casomai, che adesso mi metto a fare qualche cosa. A te il microfono. Ciao, ci sentiamo. C'è uno già male in dubbi, che cazzata che poi. Perché poi l'aria propata funziona come il metano, ma i cugilli devi cambiare, perché sono quelli, sono. Cioè non cambia nulla quasi. Che guace. Sì, sì, no, gli ugini me l'hanno detto, non vanno sostituiti, vanno bene quelli. Però il foro me l'hanno fatto da 8, invece va da 10. E, insomma, adesso devono rifare quello e poi giù dove ci sono i contattori, siccome io ho il mio contattore nella zona centrale, quindi davanti non ci stava la valvola, l'hanno messa dietro per non modificare più di tanto, e invece dice che la valvola di sicurezza deve essere davanti, però fanno tutto loro, io non ci devo mettere niente, capito? E quindi adesso ritornano il 27 mattina, capito? Sì, mi è arrivato il messaggino per confermare l'appuntamento, vengono il 27 dalle 9 alle 11 per fare queste modifiche veloci. Capito. Boh, Anto, dai, ci sentiamo più tardi, eventualmente stasera anche, poi torna alle 18.30 già, dovrei riuscire a entrare. Ce la risentiamo, dai, buona serata, buon tutto, ascolto il tuo finale e poi mi metto a fare. Ok, ciao, ce la risentiamo, ciao, alla prossima. Vabbè, mira, ti ho riconosciuto, o meno. E chi è? Avanti. Antonio, mi copri? Certo che ti copri, avanti. Sì, sono Marco, sto utilizzando un'antenna da macchina attaccata al terrazzino. Vedi un po', ho due ristazionarie però, devo fare passaggi brevi. Vai, prova. 1, 2, 3, 4, 5 7, sì. Magari per ricevere va bene, però ho quasi 2. 1 e 9, dai. Se modulo, sale 2, oltre 2, va bene. Prova fatta, ciao, grazie, ci sentiamo. Ciao, bene, mi senti tu a me. Vai. 3, 3. Allora, riprendo con questo, così non brucio i finali, aspetta che basso. Allora arrivi Santiago 8 con quell'antenna lì, con questa antennina, ma è una prova che ho fatto, perché lì in quella è una staffa da macchina, una staffa per macchina montata su quella trave per i fili da stendere, no? E lì c'avevo l'antenna del ricevitore, ho provato a svitarla perché attacco PL a metterci quell'antenna da macchina da un metro, lunga un metro. Certo, ricevere in città funziona, però trasmettere poi non ha senso avendo l'antenna nel tetto, ma è una prova che volevo fare. Va bene, quindi 7 arrivavo. Ok, vabbè, prova fatta, poi ci sentiremo con calma. Ciao Anto, grazie. C'era un altro che stava fischiando però. Ma sembrava quasi Eugenio la segnale, ma non lo so. Eugenio, ci sei? No, non è lui, avrebbe risposto. Ma chi è che vuole entrare avanti? Beh, con quella ripetto ti arriva la 230. Sono con 4 watt, 4 watt. Qua ti faccio il passaggio. Questa è l'antenna del tetto con un baracchino. E questa è l'antenna del terrazzino veicolare, però è chiusa, è completamente chiusa dai palazzi. Va bene. C'è l'abisso, c'è da 9.30 a Santiago 7. Sì, ma poi farò prove di ricezione. Più che altro l'avevo messa per vedere se riceve. Beh, sicuramente quelli di Sassari li riceve tutti. Tanto sono tutti o forti, o fondo scala, o quasi, o tutti pompendi, quindi alla fine le ricevo, dai. Va bene, ciao Antonio di nuovo. Ci sentiamo magari stasera o quando capita. Ciao ciao. Ciao, ci mancherebbe altro che non mi ricevesse. C'è qualcuno che chiama, prova a vedere, sta fischiando. Ciao a tutti, ciao. Chi è che sta chiamando avanti? Non riesco a capire chi sia. Ah boh, è timido, non vuole entrare. A me già non mi basta, no? No, il segnale è basso, sarà boh. Magari è propagazione, arrivava dunque 5, 7, 7, l'ultimo passaggio che ha fischiato era 7. Tu sei fondo scala, come fa a passarti? È una cosa improbabile. Ascolta, intanto, per curiosità, ma poi quel baracchino che Antonello l'aveva messo a posto però ancora non andava bene, avevate poi provato di nuovo a aggiustarlo oppure hai lasciato stare? Diciamo che l'ho lasciato stare perché adesso con più calma si controllerà. No, che poi mi adiro, perché mi adiro. Quindi con più calma. Sì, magari a dirarsi no, cioè conta che Antonello è sempre disponibile, c'ha buona volontà, però non ha tutti gli strumenti di laboratorio che servirebbero per tarare o riparare bene un baracchino, quindi lui tanto cerca di capire, fa quello che può con quello che ha, non ha oscilloscopio, non c'ha strumentazione di laboratorio, però vedi Antonello va di buono che è sempre disponibile, sempre disponibile, se ti può aiutare lo fa, limitatamente appunto alla strumentazione, ecco. No, ma non è che mi dirò con lui, no, mi dirò con l'apparecchio, perché poi mi fa incazzare e lo tiro a terra. Non è che mi dirò con lui, lui già ci ha messo la buona volontà, che lo dobbiamo rivedere perché ora ho ragione io. C'è qualche componente in perdita, che è un chiaro segno che c'è un componente in perdita, magari glielo devo portare e se lo guarda con la calma, capito? È un chiaro segno, perché se a caldo va bene e a freddo non va bene, cosa è? Un componente che sta perdendo che non va. È chiarissima la cosa. No, scusa, credevo che ti adirassi con lui perché non l'avevo messo a posto, invece con l'apparato che ce l'avevi. Sì, poi fa finire così. Lo so già perché poi mi incazzo, mi adiro molto, ed è un problema. Sì, magari anche per quello che c'ho la collezione di baracchini. Anche in futuro, Anto, se ne hai già uno, ne ho altri 10, per dire. Tanto mi, alla fine nessuno ne ripara più, nessuno vuole ripararne. Poi questi con gli SMD ci vuole tanta buona volontà, troppa. Cioè nessuno ne ripara più di questi SMD, sono usa e gettami. A meno che non abbia i 2 anni di garanzia con l'assistenza ufficiale tipo Proxel, quello che è, Midland, però finita la garanzia ufficiale, per esempio questi CRT sono di una ditta francese, e qua è chi te li aggiusta, li dovresti spedire in Francia alla casa madre, non fa, le spese sarebbero, già non giustificherebbero già le spese di spedizione tra andare e tornare non giustificherebbero la riparazione, più il costo della riparazione fuori garanzia, quindi fatti lo conto. Stava troppo riparata. Hanno fatto questi cagati del CMD, la componentista che andava bene come era prima, ci ha fatto scattato, forse anche per risparmiare pezzi, cosa ne so. Magari ci rimedio il fatto che la tecnologia va avanti. Per esempio questo chiuso io c'ha i componenti classici, ma ormai i componenti moderni sono tutti SMD. Infatti i baracchini sembrano dei cellulari dentro. Si diceva che i componenti moderni avessero, non so, meno tolleranze, c'erano migliori in tutto, dicono, però alla fine l'SMD vai a ripararlo e non te ne ripara nessuno, quindi i vantaggi non ci sono più. Sì, perché nessuno si vuole prendere l'abbrica di comprare le cose che devono comprare, perché sennò già adesso possono riparare anche qua, capito? Magari qua riparano più televisori con quella tecnologia, non baracchini, capito? I televisori magari certi, vabbè, più che altro i televisori economici sono tutta una scheda unica, no? Magari quelli più costosi forse hanno più schede, non so come siano fatti dentro, però i televisori, vedi, l'idea centro assistenza ufficiale te le ripara, che sia in garanzia, che sia fuori garanzia, bene o male li riparano, c'è Ennas, c'è Vittorio Branca, per la Sony era, mi pare, o Philips, o tutte e due, insomma, però per i baracchini è un altro mondo, non ne ha più voglia nessuno di ripararli. E secondo me non hanno nemmeno pezzi di ricambio, cioè in un apparato che ha una scheda unica, cioè non ha le singole schede, sezione audio, sezione trasmittente, è una scheda unica, tu hai trovato un cellulare, lì o cambi tutto, cioè o te lo sostituiscono quando è in garanzia, e se no sono usa e getta. Quindi magari se ne hai più di uno, magari se ne sfascia uno del tutto, ma c'è sempre il ricambio. Va bene, Anto, dai, ti saluto di nuovo. Ci sentiamo quando capita. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ce la risentiamo. Prima a capo era pieno di gente che riparava, ma non solo baracchini, di tutto. Ma finirà di scaffuglione, mamma mia. E sa cos'è, con questi componenti piccoli ci vuole il microscopio, cioè ci voglio quello oculare tipo chirurgo, salatoria d'aria, poi a parte la strumentazione da laboratorio, ci vuole lo schema elettrico giusto, è un casino, prima era più pratico con i componenti vecchi, infatti una cosa dico, chi ha baracchini ben funzionanti con i componenti vecchi, tipo questo 3009, è meglio che aspetta, aspetta, ti dicevo, bisogna tenerseli bene, quelli con i componenti classici, tipo il 3009 e altri, e tenerli bene sperando che non si guastino. Anto, dai, chiudo che mi chiama mamma, ciao ciao. Ciao. Attenzione, canale 10, cambio, non c'è nessuno, cambio, prova microfono, cambio. Vabbè, Antonio. Come fa che si può? che fruscia. Gianni, fucci. Affermativo. Ascolta, sono da Eugenio, c'è il 160, mi sta facendo impazzire. Dici come sta andando di radio, o già? Stai provando un 60 da Eugenio, così? Ehi, MC60 da Eugenio sto provando. E mi sta fischiando, mi dici come sta andando di radio? Ma accettabile. Accettabile in confronto allo standard che conosco, che è quello tuo. Quindi, boh, non è la radio bombardona, la tua, ma è abbastanza comprensibile, dai. Ok, abbastanza comprensibile. Ascolta, adesso va meglio o peggio? Niente di eccezionale, una radio normale, qua. Ti ripeto, per come ti ascolto io. Quindi così è una radio normale, adesso inverto, mentre così è più amplificata, confermi? È un po' più amplificata, però è appena distorta, qua. Appena distorta, cosa vuol dire distorta? Che non è limpida come il passaggio precedente. Tieni presente che c'è anche un bel po' di QRM qua in mezzo, quindi il segnale è 7 e il QRM è molto alto. Oh già, se tu fai la mia voce come fa così, la mia voce, che tu magari la ascolti meglio a casa mia, non mi la senti meglio, cioè mi hai sempre sentito così. Ti ascolto bene, Eugenio, dai, però non parlare troppo vicino al microfono che stavi strappando. Io già ti sento bene. Ok, stavo strappando. Dico, non alzare troppo il tono della voce vicino al microfono, che sennò la radio è incomprensibile. Ho capito, ci sono quanti sono, 20 centimetri, 30 centimetri dal microfono. Se alzi il tono della voce praticamente risulta incomprensibile, ok? Aspetta, c'è Babbo. Eia! Ecco, abbiamo un controllo radio, dato da autoparti, come va questa cosa? Va bene qua, un po' troppo furtina, però già ti sento, troppo appena. Troppo appena, quindi abbasso un po' il mio fidino. Gappa. Ciao Antonio. Buonasera. Antonio, adesso come sta andando? Sta trattando? Un po' meglio. No, ma non me la metta, va bene. C'è un innesco adesso? Stiamo facendo le prove già, è proprio per quello. Ciao Antonio. Comunque non è. La modulazione va bene. Non c'è il processore inserito, ma stiamo andando con l'amplificazione del microfono. Però dovete stare attenti quando vi chiede i controlli. Allora, questo è il passaggio senza processore. Ok, Antonio, tu che sei più vicino. No, forse non lo so, forse c'è tua ricezione. Allora, questo è il passaggio senza processore, con la preamplificazione del microfono. Adesso io inverto, tolgo la preamplificazione dal microfono e metto il processore. Mi devi dire qual è meglio, a chi ora che me la giornata. Allora, adesso c'è il processore inserito, senza preamplificazione. Dimmi qualcosa. Molla così. Così va meglio, più chiara? Sì, va bene. Anche da queste parti va bene. Ma infatti io non riuscivo a capirvi, perché se io uso il processore della radio, chiaramente mi spinge di più rispetto alla preamplificazione microfonica, perché se le inserisco tutte e due, le fischia al microfono, capito, mi avrete? Cappa. No, non si può, allora praticamente qua, adesso c'è il processore giusto e va bene, non si può dare un pelino di amplificazione, sarebbe a posto. Ma non mi ricordo come ti chiami, io sono tutto intrippato, so. Gianni! Poi, scusa, mi ero allontanato. Ah, cazzi sì. Cappa. Quanto ti arriva a te? Arriva 9 a casa. Qua è 7-8 oscillante. Vabbè. Arriva lo stesso. E comunque con la bombera esce, capo, ti sento anche a platamona io. Ah no, piccolina, e rompe le balle. sì, no, già sempre funzionato bene quel tipo di antenna. Ehi, aspetta a vedere se ci sono lì a Bocciodonna. Claudio? È un attimo che sto facendo delle cose, delle parature. A me già mi arriva a me la produzione, a me che ce l'ho di fronte. Ma lo sai, quel microfono l'ha modificato, esce con di fronte, l'ha modificato mio padre. Ah boh, ma quale stai dicendo? Quello che sta provando Claudio adesso? No, quello che c'hai tu. Ah, lo ZG. No, ma mica esci a Russi. Sì, vabbè, questo è normale, questo me l'aveva... Aveva dato bulldozer. Quello era il nostro, era. Quello lì, la volta, si doveva seccare le mani, quando vabbè, la mano non vuoi più. Invece di prendere tutta quella roba. Ti devi seccare le mani. E quello lì l'aveva modificato mio padre, l'aveva modificato. Gli ha messo una capsula dei telefoni bianchi, per quello esce così forte. Se no originale non è così, no? Ah boh, Anto, è la prima cosa che mi stai, cioè la prima cosa che sento, quindi boh, per me è una novità. Non puoi sentire. Anda beh. Cioè me lo stai dicendo tu. Ti ripeto, a me me l'ha dato Massimo qualche anno fa. E niente, insomma. E funziona bene. È un grillo, che funziona bene. Io ti sto dicendo che quella roba era la nostra. Ma te l'avevo detto anche qualche anno fa, te l'avevo detto. E colui l'aveva modificato, mio padre l'aveva modificato, mi aveva cavato questa capsula perché non rendeva tanto bene. E ci aveva messo quella di quei telefoni bianchi, capito? Quello della Sipi di una volta. Sono venuto di zente. Ok, anda bene, dai, vediamo se hanno ripreso quelli là. Oh, Ehi. Allora, eccoci qua, mi sentite, cambio? Certo che ti sentiamo. Allora, cosa devo fare, lasciare così o mettere il processore e togliere la amplificazione? Secondo me adesso un po' più, come va a parlare, proprio, secondo me devi fare l'incontrario, devi togliere questa cosa, cioè la amplificazione e mettere il processore. Poi se puoi dare un pilino di radio va bene. Non posso dare niente, non posso fare niente, tutto già fatto. Allora devi fare così. Allora, così è col processore inserito, senza amplificazione microfonica. Ma come mai strappa da questo difetto? Perché non sta andando bene, non sta andando bene. Sta strappando. Ci sono delle cariche, delle scariche sotto, qua. Allora. Lumi, prova! Ecco qua. Allora, così come va? Secondo me molto meglio. Cosa ne dici? Qua c'è questa merda. Ok, così com'è? Va bene. Di là di Wii, quello che fa, ma con lui deve essere roba di massa. Comunque la modulazione, parliamo della modulazione, va bene. La modulazione va bene. Vediamo cosa dice Genio. Adesso va meglio, prima c'era c'era un innesco, però adesso è sparito. Adesso guarda, sto registrando l'audio e ti mando un vocale così ti rendi conto di come ti ascolto, ok? KK, mandamelo che me ne vorrebbero conto. Andare adesso te lo mando. Perché se non fa di così va bene, va bene. Ma quella ci poco male, sarà qualche massa, sarà niente di che. Noi parliamo di modulazione, parliamo, poi il resto che ci siano i fischi è un'altra cosa. Io mi allontano 5 minuti, devo fare una cosa, ok? A tra poco. Ok. C'è un problema in questo cavolo di cosa. Allora, Marco, come va così? Così strappa. Così stiamo strappando. Adesso no. Forse quando da vedere un microfono va di casino. Allora, lo devo lasciare così, Anto, cosa ci fa? Così. Anto, dimmi. Guarda a vedere se sta andando adesso. Cazzarola che sì. La modulazione è buona, senza processore sono. Non sta strappando, vero? Poco poco però già qua. Ok, guarda a vedere adesso se sta strappando. Molla così. Non tocca nulla. Siamo arrivati? Sì. Quindi conferma, adesso ti faccio a genio. Avanti, sì. Antu, vabbè, come va la mia voce? Voi non possiamo stare andando bene? Perfetto, alla grande. Nessuno strappo, niente, niente, no? Niente, niente. Ma adesso va bene, certo non si può pretendere di aumentare troppo, perché sennò comincia a strappare, però così va bene. Ok, chiara, limpida, perfetta, sì, anche amplificata. Sì, va bene, è abbastanza normale. Non è da combattimento, però è abbastanza normale. Mentre io invece spingo di più? Ma secondo me si è adatta più a lui la voce adesso. Ma non è un MC60, vero? Ehi Anto, l'MC60 però se lo usiamo c'è qualcosa qua, ma non lo faccio solo col 60, avevo provato 4 microfoni, c'è qualcosa che attira questo qua, capito? Si porta dentro il rumore, innesca, e allora non posso inserire l'amplificazione del microfono, sto andando solo col processore. È strano, molto strano. Poi la radio, non lo so. La radio ce l'avevo io a casa 10 giorni e non fischiava, mi sentivi tutti i giorni con questa radio, quindi ce l'avevo io perché la stavo memorizzando, stavo facendo delle cosettine, ma niente di che, niente di particolare, e a casa mia non fischia. Qua fischia anche il microfono che gli ho portato, la radio che gli ho portato, brucia tutto in occhi. Come ti rimarazzo se è possibile, non ho un problema di massa. Quello stiamo controllando, ma non lo so, la verità non lo so. Strano, molto strano. Molto, molto strano, non dovrebbe fare nulla, non dovrebbe fare. Vabbè, comunque l'importante è che stia uscendo, vediamo un po' se posso attaccare qua. Ora. Se tengo la mano nel microfono, adesso sta pompando, no? Certo, proprio la rimassa. Scusi, c'è un picchetto qui, e mi attacchi. Ci pompa, è che non lo so, così è buona la radio, no? C'è un grido che è buona la radio, io lo grido, processore e amplificazione attaccata, io lo grido che è buona. te faccio un'altra prova. Prova. Un po' c'è vano, com'è la situazione? Io ti sento bene adesso. Oh, aspetta un attimo. Cosa vuoi fare? Non lo so. Allora, Arto, mi dici come sta andando? Bene, mi sento bene, non è super amplificata, però funziona bene. Va bene così, meglio di prima, senza fischi, senza niente. Cappa, va bene. Ma tu a me come mi senti? Senti un po' la mia voce, com'è? Va benissimo. Va benissimo, in che senso? Mi senti bene, sì, sta a posto. Tutto a posto, va a posto, mi sento bene. Non ci sono fischi, non c'è niente, no? Grazie a Dio, no. Ok, va bene, d'accordo. Ok, che strano questi fischi. Ma avete provato con l'antenna diretta? Non è che c'è commutatori, cose attaccate, no? Per vedere se c'è uno di quelli. No, non c'è niente, c'è solo l'antenna diretta, la radio e basta. Sarò là. Aspettate. Inizia a prendere il picco, se no... Così bene mi senti? Anto, così bene mi senti? Benissimo. Oh, va bene, dai. Allora, se mi senti bene, lasciamo stare così, ok? Ok, alla grande. Ma mi senti meglio a Porto Torre, sono meglio a casa tua. Io penso a casa tua. Tu a me. Vabbè, ti lascio in compagnia di Eugenio, dai, che io devo scappare. E io, scappa. Eugenio. E io, a tu. E io, ma andiamo bene comunque, là. Già, ti sento bene. Poi bisogna scoprire il perché sta... fischiamo, vabbè. Però adesso non sta succedendo più, quando alzi succede. Aspetta, tanto che accompagno a Claudio Furia, un attimino, mi sto rientrando subito. E ciao. Sì, sono qua. Cambio. Allora, che si dice? Cambio. Ola. Cambio. Canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Sì, ci sono io, buonasera Carlo, buonasera. Eugenio, buonasera, come stai? Da quelle parti in bel tempo, immagino. Tutto a posto. Però mi sono fatto questa antenna, se non io non riesco a capirti. Sì, qua lo stesso, oggi bella giornata. Infatti stamattina sono uscito, oggi è il giorno libero. Ho fatto un sacco di cose, messo a posto, a casa, insomma. Poi sono sceso giù in garage, mi stavo preparando l'antenna, così se riesco questa settimana, fine settimana, la tiro su quella di 7 metri e fruscia, e così vediamo se migliora il mio segnale dalle tue parti. Carlo, mi devi scusare, ma io ho un po' di propagazione, ti copro, non riesco proprio a sentirti. Eugenio, prova a passare in SSB. Dove? Prova a passare in SSB. Prova a passare in FM invece. O proviamo in FM, dai. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parlo, ascolto, cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Attenzione, canale 10, cambio. Cambio. Sì, 1, 2, 3, 4, 5, ora, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ora, Parlo, ascolto, cambio. Ora, cambio. Gabriele. E già sto parlando, Gabriele. Ciao Gabriele, ciao Gabrieli, da bravo stai facendo. Sta mangiando i crostini che ha preparato papà. Uno di piccetti mangio di buoni. Metti. Oi, a meno male sta facendo un po' di bel tempo, a parte l'umidità. Cosa vuoi fare? Almeno quello, almeno ci scalda. Eia, oh, non hai visto? Un bosso di appuscia Eurasia dice, arrivato il pellet, venite a Sassari. Una era detto che si buttava, era detto 9,50 e lui ha detto, ma sta magnatino. Ma in effetti non è che alla fine non è che la ciappi di manco, no. Mi sa che il prezzo è quello lì quasi. No, che babbo me l'ha comprato alla Conad, due sacchetti e l'ha pagato 7,40 euro. Allora ci andava. Ma va, dici la regalo burro Euromax ce l'ha 9,30 euro e Eurasia 9,50 euro, ma lì ci sono massi, so. Vabbè, anche la qualità, dipende com'è di qualità, vabbè che avete tutta roba. Oh, questo che ha pigliato qua vuoi dire su bianco me. E c'ha, mi sembra, 46 così di grado calorifero. Sono tutti così, va. Allora, è buono. E allora? Arrivani tra due, ha detto si chiamava Eugenio, dalla corte. Ehi, andiamo su Norra. Lo ha detto dalla corte. Eia. Ma porto torre su Eugenio, Non lo so, perché ha detto che era da un po' che non entrava e vera Franco. E l'ha sgamato subito, perché l'ha detto che si chiamava Matronomo. E l'ha detto, no, tu sei Eugenio, l'ha detto, io ti conosco. E l'hai puttanato subito. Oia, Coromeo, bene mia, gioia mia. Con quarantenna e tornarretta. Andavè. Ho visto il post che ha messo quel tipo di continente, GPE, Sirio. Ma chi sa quant'è lunga l'antenna? La GPE, quella che ho io. Non lo so, quello su CB Barattini su Facebook l'ho visto, che c'è quella casa che ha tipo la mansarda tipo la mia là sopra. Mica non si era già bocciato io me. E gliel'hai commentato tu, mi pare che l'hai scritto, non lo so cosa l'hai scritto, non l'ho visto bene anche di 9 cuvè, quando sono da 2 ore mi si annebbia un po' la vista e vado a leggere nel telefono e poi mi spariscono le lettere, cazzo. Tu ti dia che li devi attazionare, se la isoli bene non te le dà attazionare l'antenna. Basta attaccare come si chiama, lui rosmetro e controlli, se tu con l'antenna c'ha lo filo che lo devi salire, sollevare o abbassare, e lo devi regolare, no? No, quando fa si leva, quando fa acqua dice che salgono a stazionare, ma non è così, cioè, salgono se non è isolata bene l'antenna, se è isolata bene non nata in stazionare. Ho capito, allora va elettromagnetismo quando fa così. No, entra leva. Già dovrebbe essere un'antenna buona, ma quella è l'alluminio, C'è un'antenna buona, ma non sai che bomba. E quanto è lunga quella lì, Anzo? La caccio io. Mi pare che sia 6,50 metri. Kappa, no, già... Questa qualità dovrebbe essere buono, mi. Oh, vedi che va bene. Cattro radiale, c'è una cipotta, viera mia. Eia, perché ho intenzione di comprarne una di quelle e metterla all'altra parte dove ho la cameretta, mi. Così me la uso con l'altro barattino, quello CRT. Sai cosa? Allora, ti do un consiglio, isolala bene, capito? Le giunture e tutto. macchina, però c'è un forettino piccolino, quello va lasciato stare perché è della condensa, capito? Ehi, quel nastro autoglomerante, mi chiesto di più un nastro galvanizzato. E con quello pure isolata bene. Eia, eia. E va, finimo, se non mi compro il deviatore d'antenna che su della drive a due vie e attacco due radio e uso un'antenna. Quando un bel uso di un tratta guida, un giro a uno e quando giro guido, un tratto un lato. Ma chi c'ha buon pavvino come? Ci dà uno in più acqua di Draghi Master, anche perché non c'è più ai 20. Draghi Master, regge molto di più ai 20, capito? Solamente più, un po' più in alto della Draghi Master è quella che è una bomba a Sassari. Già lo so quanto, ma il problema lo sai come sei, che a me me la fa Davide, mio fratello, ed è impegnato, va, e la prende la macchina a babbo, ha fatto la frizione, tutta a posto, a regolarate, e mi ha detto, cazzo, ci sono attesi le canti spie, non accelerai, già metti di accelerare. E l'ha attaccato il buon pizzo, e la prende la diagnosi, ed è tutta canta la sera, perché ne vedi, ne era un problema. Anzi, praticamente non ha fatto nulla, non ha cavato, cioè, l'ha smontata, ma è puccato il giambo, è finita la frizione nuova. Però non lo so cosa, questi macchini da pane, gatte, questi centralini, è un casino. Si è fatta raggio, non è un problema. No, praticamente mette in moto, cammina, però non accelereggia come si deve accelerare, fa dimmi, non apri, quando ti capisci. In mano si va, ha toccato.